quando ti pare, quando hai voglia. Non farmi aspettare, non farmi aspettare, parlami di te. Non lasciare il tempo cancellare questa voglia. Non lasciarmi appeso ad un chiodo, fatti amare, liberati con me. Nera, miseria nera, apri la bocca. Fai uscire quello che hai dentro la pancia. Mostrami i tuoi abissi, i tuoi segreti, la tua faccia, la tua terra promessa. Il tuo cuore è mia scommessa. Quante volte ti hanno ucciso? Su quali sponde hai posato il capo? Quante mani ti hanno sfiorato? Quanti sogni hai perduto? Quanti mari hai affrontato? Quanti uomini ti hanno deluso? Quanti sorrisi avresti voluto? Inferno al mondo che non ti ha capito. Dimmi quando vuoi, quando ti pare, quando hai voglia. Non farmi aspettare, non farmi aspettare, parlami di te. Non lasciare il tempo cancellare questa voglia. Non lasciarmi appesa ad un chiodo, fatti amare, liberati con me. Nera, miseria nera, apri la bocca. Fai uscire quello che hai dentro la pancia. Mostrami i tuoi abissi, i tuoi segreti, la tua faccia, la tua terra promessa. La tua vita è mia scommessa. Quante volte hai amato? Su quali sguardi hai posato il tuo viso? Quante mani hai accarezzato? Quante risposte hai trovato in ogni angolo? Nella tua vita hai scritto pagine di storia vissuta. Ti resta l'oggi da illuminare, il tuo futuro un campo da arare.